Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 8:14, ben ritrovati, Irene Zerbini al microfono. Oggi parliamo della Valle dei Templi e di un abuso che risale veramente ad altri tempi. È stato un abuso accertato nel 1993. Ieri si divertiva Mattia Feltri sulla Stampa a ricordare quei tempi. Entrava in vigore il Trattato di Maastricht, si scioglieva la Democrazia Cristiana, Forza Italia non era ancora nata, Totò Riina e Pietro Pacciani in quegli anni finirono in carcere. Ebbene, poi ci fu una sentenza di condanna emessa dal pretore del 1995, una sentenza che diventò definitiva nel 1998. Ricordate quando scoppiò lo scandalo dei rapporti tra Bill Clinton e Monica Lewinsky? Alberto Tomba vinse la sua ultima gara, venne fondato Google. Insomma, l'esecuzione di quella sentenza è di ieri, 24 agosto 2015. Ci sono voluti 2 decenni per buttare giù un muretto nella Valle dei Templi, cioè il parco archeologico più grande del mondo. E a poca distanza proprio da questi templi ci sono gli abusi, non il muro di Berlino, ci ricorda la Stampa, nemmeno il muro del pianto, un muro di recinzione lungo 80 metri, alto 90 centimetri. Eppure in Italia, anche dopo l'accertamento dell'abuso, sembra praticamente impossibile arrivare alla demolizione. Partiremo da Agrigento e da questa situazione che è significativa di un fenomeno tutto italiano, addirittura si fa fatica anche a tradurre in un'altra lingua abuso edilizio, per parlare della morale all'italiana, cioè quella che caratterizza tanti nostri atteggiamenti. Sembra che abbiamo sempre una scusa che ci permette di non sentirci in colpa quando facciamo qualcosa leggermente, secondo noi, ai nostri occhi, fuori dalle regole. A volte lo facciamo perché lo fanno tutti, a volte perché, secondo la nostra coscienza, non c'era altra scelta. E parleremo proprio di questo delicato equilibrio tra ciò che è legale e ciò che è illegale, ma secondo la nostra coscienza consentito, cioè di questa morale all'italiana un po' molto flessibile, con Gherardo Colombo, autore di un ultimo libro rivolto ai giovani, Educare alla legalità, suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti, perché infatti Gherardo Colombo, che ha scritto questo libro con Elena Passerini, ritiene che ci sia proprio un potere politico dei genitori, un potere di educazione alla democrazia. Per altri invece questo compito deve essere demandato alla scuola. Voi come la pensate? Ditecelo al 349-238-6666. Ci sono leggi o infrazioni piccole noi collezioniamo così a cuor leggero? Partiremo anche dalla più diffusa, probabilmente, quella di non pagare il biglietto sul trasporto pubblico. In media il 20% in Italia di chi usufruisce del trasporto pubblico locale è sprovvisto del titolo di viaggio, cioè del biglietto. A Roma l'evasione è dal 18 al 40%, a Firenze al 14%, a Bologna del 7,7%. In questo caso le percentuali sono state offerte dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale, che si chiama Astra. Non è cosa da poco, perché in media prendono un autobus o una metropolitana 11 milioni di persone. Su Milano, chissà perché, ci sono i dati solo della metropolitana, e allora chiaramente lì è più difficile entrare senza biglietto e rispetto al trasporto di superficie, come vengono chiamati tram, autobus e pullman, si registra uno scarso, un magro 0,9% di persone che viaggiano senza biglietto dell'autobus. Volete intervenire in diretta insieme ai nostri ospiti? Noi affronteremo questo tema dalle 9 in poi e il numero da comporre, potete prenotarvi, è l'800 24 00 24. Se invece preferite spedire un messaggio, il numero è il 349 238 6666. E chissà come sono viste queste nostre piccole violazioni agli occhi degli altri, che comunque, come abbiamo capito dalla rubrica Visti da Fuori, a loro volta tendono a giustificare ciò che in Italia si fa, perché al di là dei difetti in qualche modo se ne innamorano. Vediamo se è il caso anche del corrispondente che andiamo a incontrare questa mattina. Visti da Fuori. Buongiorno e benvenuto Mario Sakamoto. Buongiorno a tutti. Mario Sakamoto, già il tuo nome racchiude entrambe le culture di cui tu sei portatore, quindi tu sei corrispondente in Italia. Per quale testata? Per la Sankei Sport del gruppo Fuji Sankei Communication Group. E hai questo nome completamente italiano? Sì, perché mio padre è sempre stato uno studioso dell'Italia, tanto che poi 45 anni fa è stato invitato dal governo italiano, che gli ha offerto delle cattedre universitarie, perciò ho questo nome italiano. E naturalmente questo ha costituito la tua ricchezza e personale e professionale. Noi siamo partiti con una domanda questa mattina. Immagino recentemente ti sia occupato per Sankei Sport di Balotelli, della maglia rossonera. Non ti chiedo nei dettagli, immagino tu segua il calcio soprattutto e prevalentemente da qua. Certo, anche il calcio, che in questo momento è quello che tira di più in Giappone, degli sport praticati in Italia e in Europa. C'è un interesse crescente anche da parte del pubblico giapponese sul calcio italiano e non solo. Negli ultimi anni che tendenza hai registrato? Beh, ultimamente la Serie A comunque ha perso un po' di interesse all'estero, perché è calata un po' la qualità della serie italiana, perciò, però insomma, il fatto che ci stanno dei giocatori giapponesi importanti che vi giocano tiene vivo ancora l'interesse. E ti sei occupato di calcio e non solo, nel senso che nella tua attività ovviamente osservi anche il costume. Certamente. Questo utilizzo un po', come dire, disinvolto in Italia delle regole, della morale, e come viene vissuto dai tuoi connazionali? Beh, comunque da lontano non è che vedono effettivamente quello che succede, però l'italiano magari è classificato un po' più che altro come pressapochista, più che in negativo, ecco. Pressapochista in che senso? In quali ambiti? Ma il giapponese penso che definisce giustamente o ingiustamente l'italiano pressapochista in tutti gli ambiti, lavorativo e tutto, perciò se uno deve avere dei rapporti con l'Italia sta molto attento. Quando tu hai raccontato il Giappone invece ai tuoi amici italiani, molto spesso hai fatto un parallelo con quello che si vedeva nei cartoni animati che tanti che appartengono a una certa generazione hanno visto, cioè Goldrake, Mazinga, Gig Robot d'acciaio. Quali altri citi di solito? Ma sì, quelli che conoscono bene gli italiani sono i soliti Goldrake e Gig Robot d'acciaio alla fine. E quale insegnamento trai da questi cartoni animati? Beh, ma più che l'insegnamento si vede la differenza adesso di la direzione che sta prendendo il Giappone. Uno lo può vedere semplicemente vedendo i cartoni animati che abbiamo nominato adesso, che in Giappone erano trasmessi 45 anni fa, che in Italia sono arrivati quasi 6-7 anni dopo, coi cartoni animati da adesso. I cartoni animati che abbiamo menzionato adesso parlano tutti di una morale, di un eroe, il sacrificarsi per salvare la famiglia, lo Stato. Ultimamente sono diventati molto più soft e leggere le storie dei cartoni animati giapponesi, non hanno tutta questa morale. E da lì vediamo molto il cambiamento anche della società giapponese. Quindi tu questa erosione dei valori la cogli anche nella società giapponese, non semplicemente in quella italiana, è un po' una tendenza globale. Sì, è una tendenza globale che però la nostra era talmente di rigore che anche adesso, tornando in Giappone dall'Italia, uno dice mamma mia quanto è tutto organizzato e la gente è educata e tutto, però se uno paragona a una quarantina d'anni fa, anche il Giappone sta vivendo questo crollo un po' di valori e tutto. Quando parli con i tuoi amici giapponesi, con i tuoi connazionali, ma non solo naturalmente con i capi redattori del tuo giornale, ma anche con persone che non svolgono l'attività di giornalista, intendono per esempio organizzare un viaggio in Italia, quali sono i consigli che tu dai loro? Di non essere truffati. E alla fine di stare attenti ai rom, perché cioè, per me è una piaga dell'Italia in questo momento, perché i turisti vengono, almeno su Roma, vengono sempre presi di mira da questi rom, insomma. E perciò io personalmente consiglio di non prendere proprio i mezzi pubblici. Quindi tu il tuo problema non è il pagamento o meno del biglietto, ma sostieni che siamo proprio a rischio borseggio così elevato che forse l'italiano ci sia abituato, ma per un giapponese può essere scioccante, tu dici? Ah sì, può essere molto scioccante, ma oltretutto bisogna ricordarsi che non è gli autobus, i mezzi pubblici italiani. Comunque uno deve già salire provvisto di biglietto e tutto, cioè per un turista che magari pensa di poter salire e pagare il biglietto e tutto non è facile, in Giappone si sale solamente dallo sporto dell'anteriore accanto all'autista e si paga il biglietto, perciò non è nemmeno così, non che è una pratica naturale. È una pratica, è una procedura molto utilizzata in tanti paesi stranieri, quindi non credo che quando tu racconti, parli delle problematiche dell'Italia riduci tutto al problema dei borseggi o dei rom, immagino ci siano anche altre situazioni che magari segnali anche in positivo, per esempio. La gentilezza degli italiani alla fine rimane sempre, quando trovi un italiano veramente gentile non ne trovi da altri paesi, c'è gente che ti sei perso e veramente ti accompagna fino al posto, queste sono cose molto caratteristiche dell'Italia. In Giappone ad esempio, non perché uno è più scortese o più maleducato, ma il giapponese ad esempio è molto timoroso verso gente che parla solo altre lingue che non siano il giapponese, perciò molte volte quando uno straniero ferma un giapponese per chiedere un'informazione lui scappa, è una cosa buffa, ma è così. Tu trovi che i giapponesi siano diffidenti verso altre culture, verso gli stranieri, abbiano difficoltà ad aprirsi? È più timore del giapponese medio. Beh, noi alla fine siamo un'isola, perciò siamo sempre vissuti isolati, questo è un bene e un male, insomma, perciò il giapponese medio che magari è uscito solo poche volte per andare a fare qualche viaggio all'estero, alla fine si sente ancora intimorito da uno straniero che di un colore diverso, che parla un'altra lingua e tutto. A proposito del colore, come viene definito, diverso, tu nel corso della tua vita hai frequentato scuole sia in Italia che in Giappone. Certo. Hai trovato difficoltà in questa possibile etichettatura, no? Molto veloce, che viene spesso, l'etichetta viene affibbiata anche per come uno appare, no? Anche certo. Qualche istante fa tu parlavi con molta disinvoltura il fatto stiamo attenti ai rom, eccetera. È una tendenza molto umana, quella di classificare, no, velocemente. Hai avuto episodi quando sei arrivato in Italia, trovi di essere stato accolto, trovi di essere stato a volte trattato in maniera diversa dagli altri solo per il tuo aspetto? Qual è stata la tua esperienza? Beh, parlando di un 43 anni fa, diciamo che in Italia c'erano pochi stranieri, gente che si intende di colore, che può essere nero, giallo o cose del genere, perciò comunque era visto con molta curiosità dagli altri ragazzi, bambini e cose del genere. Quindi curiosità e non discriminazione, non pregiudizio. Sì, io su questo, come ti ho parlato pure ieri, non penso che l'italiano è razzista. È pieno di un po' di stupidini che magari sfruttano il colore della gente proprio per arrivare al risultato di ferirti, ma non è perché, cioè, se potessero usare altre argomentazioni che ferirebbero di più sarebbero le altre, insomma. No, non penso che si possa chiamare l'italiano razzista, e questo secondo me è una strumentalizzazione di molta gente. Per me la parola razzista è molto strumentalizzata in Italia. Mario, quindi tu preferisci, e probabilmente anche all'interno della tua famiglia ti hanno educato in questo modo, ad attribuire certi atteggiamenti all'ignoranza in generale. Certo. Più che al razzismo. Se tu potessi esportare, a parte la gentilezza, prima di salutarci, un ultimo elemento dall'Italia, visto che voi corrispondenti stranieri che vivete qua vi concentrate spesso su ciò che è bello, qual è una cosa che ti porteresti in valigia nel prossimo viaggio? L'ingegno degli italiani. L'ingegno degli italiani? Sì, l'ingegno, sì, proprio la caratteristica degli italiani. Noi giapponesi come popolo siamo molto metodici, perciò il risultato che raggiunge un giapponese come singolo cittadino o un'impresa, se uno osserva il passato è facilmente proiettabile, perché comunque noi siamo metodici, perciò vedi che alla fine con l'impegno e tutto riesce a tracciare una linea della sua evoluzione, sia a livello come uomo che come impresa. L'italiano ha quell'ingegno che magari non riesce a fare nulla per 5 anni, poi ha il lampo di genio e si inventa una cosa, è una cosa che ci manca moltissimo a noi giapponesi. Mario Sakamoto, grazie per queste tue osservazioni, e oggi abbiamo incontrato, buongiorno e alla prossima Mario, buon lavoro. Alla prossima, grazie. Responsabile della Sankei Sports, che è un quotidiano sportivo giapponese. Visti da Fuori ritorna come sempre domani mattina alle 8:15. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E rieccoci insieme, ora cambiamo pagina. Abbiamo sentito come in Giappone in realtà l'evasione del biglietto sull'autobus, per esempio, non sia possibile per una semplice procedura pratica, al di là della morale o del senso etico dei cittadini. C'è infatti la possibilità di salire sul mezzo solo se il controllo sul titolo di trasporto, come viene definito in burocratichese, cioè sul biglietto, viene effettuato. E in altre città, penso a città del Nord America, per esempio, si può direttamente pagare nella cassettina del conducente dell'autobus, che non tocca i soldi, deve continuare a guidare, ma se tu non hai l'equivalente del biglietto, lì non sali. Stiamo affrontando e prendendo in esame anche queste possibilità di violazione delle regole, delle leggi, che poi incidono sulla mentalità collettiva, per capire perché noi italiani tendiamo sempre ad autoassolverci quando varchiamo la soglia della legalità. E qui naturalmente nessuno si mette sul piedistallo, sono mille le situazioni in cui non chiediamo lo scontrino, alcuni non mettono in regola le persone che lavorano nelle loro case, per esempio che fanno la pulizia o le badanti. Quando si esce dal supermercato e c'è la possibilità di fare quello scontrino elettrico, un po' fai da te, che la macchinetta ti chiede, e questo è stata una segnalazione che ci è arrivata, ti chiede quanti sacchetti hai preso, e naturalmente quella macchina non ha la possibilità di verificare, si bara anche lì un pochino, si scrocca anche lì, c'è il trucco anche in quello, e c'è questa mentalità molto diffusa, non so se più diffusa o meno diffusa che altrove, che stiamo prendendo in considerazione per comprendere come mai abbiamo questa morale usa e getta, cioè sugli altri siamo sempre pronti a puntare il dito, su noi stessi invece troviamo mille giustificazioni. Vogliamo sentire anche le vostre e anche le nostre al 349-238-6666, perché questo è il numero degli SMS. E infine infatti alcuni ci segnalano proprio il fatto, Daniela è l'ultimo sms sulla tematica del pagamento. E si diceva una volta fare i portoghesi quando non si pagano i biglietti, è un'espressione che non mi piace, ma se si potesse pagare direttamente al controllore, se ci fossero più controllori, probabilmente questo fenomeno non esisterebbe. Ma è solo un piccolo esempio di un atteggiamento che stiamo osservando al microscopio per capire di più su tanto che si fa dalle nostre parti. Intanto ci ha già raggiunto un'ascoltatrice all'800 24 00 24 per il primo tema di questa parte della trasmissione, che invece è sull'abusivismo edilizio. Cioè, ci siamo chiesti, ma esiste un modo per ripristinare la legalità in tempi che non siano biblici, che non richiedano un ventennio per l'abbattimento di un muretto nella Valle dei Templi, tra l'altro, cioè il più grande parco archeologico del mondo, come è accaduto proprio ieri hanno cominciato a muoversi le ruspe e chissà se continueranno. Rosanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una considerazione generale in merito all'abusivismo edilizio. Scusi, Rosanna, da dove chiama? Io chiamo da Genova. Ah, speravamo da Agrigento, così che potesse purtroppo farci. Purtroppo, guardi, io sono stata ad Agrigento tanti anni fa ed ero rimasta scioccata di quello che ho visto nella Valle dei Templi. Comunque, io abito a Genova e mi domandavo, esiste l'abusivismo edilizio? È sempre esistito, però parallelamente esistono degli organi che sono autorizzati a rilasciare le concessioni edilizie, però poi avrebbero anche il compito e l'onere di sorvegliarle. Cioè, questo abusivismo edilizio perché nessuno lo vede? Perché nessun comune interviene quando c'è l'abuso immediatamente, senza lasciare costruire un immobile per poi dover andare ad intasare i vari tribunali italiani, penale, civile, amministrativo, e impiegare 20 anni ad ottenere una demolizione. Rosanna, una domanda più che legittima, molto ragionevole, grazie per il suo intervento. Laura Biffi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Laura Biffi è dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, ha curato il dossier L'Italia frana, il Parlamento condona, e si trova ad Agrigento. Laura, prima di prendere in considerazione Agrigento, rispondiamo all'ascoltatrice. Perché per anni questi abusi sono stati forse anche oggetto di scambi elettorali? Perché il sindaco, il titolare, il primo che può in qualche modo far intervenire e può contestualmente anche dire addio a volte alla rielezione, alle prossime consultazioni. Esatto, la domanda dell'ascoltatrice era assolutamente pertinente e sostanzialmente la risposta, diciamo, più sintetica è questa. I comuni in questi decenni non sono intervenuti nel controllare che non si costruisse abusivamente e poi nel non demolire, quindi non sono intervenuti per demolire, perché sostanzialmente questa prassi, ahi noi, molto diffusa, soprattutto negli anni Ottanta, anni in cui c'è stato il boom dell'abusivismo edilizio, è sempre stata considerata una buona occasione per acquisire voti. I voti degli abusivi in certi luoghi d'Italia sono stati pacchetti elettorali non indifferenti che hanno permesso elezioni non solo di sindaci e consiglieri comunali, ma anche di onorevoli del Parlamento nazionale. Quindi, diciamo, tenersi buoni gli abusivi a suon di promesse del tipo state tranquilli, non interverremo, piuttosto che state tranquilli, arriverà un nuovo condono edilizio, è stata un'occasione per molti per fare carriera politica. E c'è poi chi ci segnala l'abusivismo per necessità. Allora, l'abusivismo per necessità, per quanto ci riguarda come Legambiente, è un mito da sfatare, lo diciamo a ogni piè sospinto. Ma i numeri cosa dicono? Dicono che la stragrande maggioranza, ma davvero la quasi totalità dell'abusivismo edilizio in Italia è abusivismo di seconde case. Sono case che sorgono nei luoghi di pregio, sono case vista mare. Un bisognoso non ha necessità di costruirsi la casa vista mare, ha necessità di costruire la casa punto. Nel mondo i bisognosi di case che non hanno soldi per costruirsela sono tanti e non necessariamente agiscono illegalmente. Ci sono politiche di sostegno all'abitazione, c'è molta gente che vive in affitto, anche in questo paese c'è gente onesta che vive in affitto e non pensa di costruirsi una casa pagando la metà, se non un terzo, dei costi di una persona che si costruisce la casa secondo le regole. Quindi alla fine l'abusivismo edilizio è una pratica sostanzialmente di chi ha pensato di speculare, di fare il furbo. Non esiste abusivismo di necessità. Ci sono dei casi molto limitati, molto concentrati, di case abusive abitate da famiglie che non hanno seconde case. Sono famiglie che, come in tutti i paesi civili, dovrebbero avere, in caso di reale necessità economica, un sostegno pubblico per trovare un alloggio dignitoso. Esistono le case popolari, perché in certe città, comunque, in certi posti, Laura, si vive nelle case popolari e in certi altri si vive su uno scoglio vista male? Lo dicono le percentuali, lo dicono i numeri. Il 99,9% di case abusive in Italia sono seconde case vista male, quindi penso che la risposta all'abusivismo e necessità stia in questa percentuale. Francesco Erbani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Lavora nella redazione culturale della Repubblica, Francesco Erbani, ma è un innamorato del patrimonio pubblico e culturale, soprattutto italiano, a cui ha dedicato tanti libri. Adesso ne cito solo alcuni. Prima di tutto Pompei, Italia, esce domani, quindi merita una menzione. Poi l'Italia maltrattata, il disastro L'Aquila dopo il terremoto, il tramonto della civiltà pubblica, Antonio Iannello e lo scempio dell'ambiente, uno strano italiano, si intitolava questo libro del 2002. Quindi Francesco, tu ormai da anni osservi Agrigento e non solo, insomma, e ti sembra che sia comunque, anche per registrare un cambiamento se c'è, e stia aumentando la consapevolezza verso il proprio patrimonio da parte degli italiani, che questi temi raccolgano sempre più sensibilità, consenso, o siamo al punto di partenza? No, una sensibilità e una consapevolezza pubblica mi sembra che sia aumentata nel corso degli anni. A questo però non ha corrisposto una adeguata e altrettanto consapevole politica da parte delle istituzioni. Il caso forse dell'abusivismo è un caso emblematico. L'abusivismo è un fenomeno che l'Italia conosce da decenni, da molti decenni. C'è stato anche un abusivismo di necessità, ma si è fermato grosso modo ai primi anni 70. Una città come Roma conosce un abusivismo di necessità negli anni 50-60, quando gli immigrati dalle regioni centrali o meridionali soprattutto si costruivano la casa lungo le vie consolari. Questo però ha intaccato duramente la qualità della città e sono quartieri che poi si è faticato in maniera drammatica a coinvolgere in una vita amministrativa e urbanistica corretta. È costato tantissimo far ritornare nella legalità queste abitazioni, questi interi quartieri. Quindi l'abusivismo è un fenomeno, diciamo, di illegalità individuale, ma è anche un dramma dal punto di vista economico, è un dramma dal punto di vista dell'assetto complessivo delle città. Poi Francesco, dopo una certa... cerchiamo di rispondere anche alla domanda dell'ascoltatrice che dice: ma come può avvenire sotto gli occhi di tutti? Perché si devono aspettare anni e anni e anni dopo l'accertamento dell'abuso per esempio, prima di poter demolire, proprio per poter bloccare i lavori? Chi è titolare di questa potestà, di questa capacità? Beh, in primo luogo le amministrazioni comunali, che sono quelle che rilasciano la concessione edilizia e che, se si accorgono che si è costruito addirittura senza concessione edilizia o violando la concessione edilizia, devono intervenire, hanno l'obbligo di intervenire. Scatta anche un reato di abuso, di omissione di atti d'ufficio nel caso non si intervenga. Questo che è quello che è stato sventolato di fronte al comune anche nel caso di Agrigento, visto queste continue lungaggini, la procura ha dovuto anche usare un po' le maniere forti per vedere applicata una sentenza ventennale. Qui stiamo parlando di Agrigento, ma immagino sia un pochino una procedura quella. Proprietario di un edificio poi va al TAR, sospende la validità dell'ordinanza, è tutto molto macchinoso. Assolutamente sì, si è tentato alla fine degli anni 90 di varare una legge che rendesse operativo e soprattutto rapidissimo l'intervento di demolizione in caso di abuso accertato. Questo non è accaduto. Per cui in Italia cos'è successo? Perché non si è potuta varare questa legge? Perché la legge era scritta, pronta, ma ora non ricordo se perché cadde la legislatura, cadde il governo e si interruppe la legislatura, ma comunque quella legge non fu mai approvata. C'è assolutamente bisogno di normalizzare questi interventi, di renderli operativi, rapidi, ma questo non avviene. Francesco, non avviene. Ti fermo un attimo perché ci sono delle sollecitazioni da parte degli ascoltatori che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello che stiamo dicendo e tra poco vorrei che tu rispondessi a loro anche. E prima però dobbiamo controllare il 26 agosto come procede, traffico, circolazione su strade e autostrade. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E dunque ancora buona mattinata, buona giornata da Irene Zerbini. Diamo subito la parola a chi ha composto il numero per intervenire in diretta su questo tema dell'abusivismo, 800 24 00 24. Volevo solo precisare, tanto per parlare di cavilli e quanto accaduto proprio in pratica, visto che l'abbiamo citato in teoria, che ieri, 20 anni dopo, le ruspe hanno dato il via agli abbattimenti. Siamo ad Agrigento, qui stiamo scattando una fotografia agrigentina e hanno cominciato dal muretto di 90 cm per 20 metri di lunghezza. Siamo in contrada Muscello, se vogliamo essere più precisi. Questo muretto era oggetto della prima sentenza. Allora, chi ci stava lavorando? Operai di un'impresa di Palma di Montichiaro. Questa impresa si è aggiudicata una gara da 80.000 euro. La gara era stata bandita dal comune proprio per radere al suolo 650 costruzioni abusive. Ce lo racconta anche ieri Paolo Ferrario su Avvenire, ma tutti hanno narrato in questi giorni quello che accade in questo immenso parco archeologico. Ora, queste abitazioni abusive sono state tirate su in questi decenni in faccia ai templi dorici dell'antica Acragas. Hanno dovuto interrompere subito i lavori, però gli operai, perché c'era un vizio di forma, cioè i proprietari del muretto chiedevano la verifica del titolo esecutivo. Quindi ruspe, fermate ancora una volta, e ancora una volta ricorso al PM e ricorso alla burocrazia giudiziaria, perché la risposta è stata del tipo: per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione emesso in sentenza dal giudice deve essere eseguito dall'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che trattasi di provvedimento di tipo ablatorio caratterizzato dalla sua natura giurisdizionale. Se questa non è una contorsione, per dire, si può procedere con le demolizioni, ma questo già il linguaggio è uno specchio, è un elemento, è un esempio di quello che ci si trova ad affrontare quando si prendono in mano questo tipo di problemi. Diamo la parola, l'abbiamo promesso. Domenico, pronto, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie Domenico, dica. Allora, io fermo restando che questi abusivismi così netti e eccessivi, insomma, vanno condannati in modo più assoluto, però volevo discutere un attimino di quello che sono le norme urbanistiche di questo, della nostra, in generale in Italia. Lì potremmo parlarne per settimane. Veniamo, ecco, al punto. Scusi, la invito alla sintesi per lasciare, sì, un po' voce a tutti. Il punto è che se noi non diamo maggiori responsabilità a coloro che sono preposti al primo controllo, alla prima verifica, cioè la direzione dei lavori, direttore dei lavori e in primis il progettista, qualora si verificano abusivismi edilizi, diciamo, in difformità alle concessioni edilizie, questo problema non lo risolveremo mai. Cioè va data responsabilità maggiore alla direzione dei lavori, perché è troppo semplice poi andare a dire il controllo va effettuato da chi, dagli organi competenti. Sappiamo come sono messi le amministrazioni in generale in Italia: personale praticamente pari a zero, territori immensi e di difficile controllo. Sì, è molto chiaro. Questo. È molto chiaro il suggerimento che lei dà. Domenico, grazie. Da dove chiama? Grazie. Venafro. Provincia di Isernia. Grazie mille. Ci spostiamo in un'altra regione. Davide, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Avevo solo un'osservazione circa quello che ho ascoltato sinora. Sì. Mi è capitato personalmente, insomma, un mesetto fa di parlare con degli imprenditori di un'azienda agricola in Puglia che dicevano che in piena campagna la loro fattoria hanno una vasta, insomma, hanno tanti olivi eccetera eccetera, avevano richiesto formalmente in comune per poter elevare di un piano il caseggiato per poter consentire di fare anche un bed and breakfast. Il commento è stato: tutti quelli che lo fanno in maniera abusiva risolvono il problema e lavorano, e noi che abbiamo chiesto regolarmente oltre ai tempi poi alla fine ci hanno detto inspiegabilmente di no, perché c'è un tema anche lì che si aggancia al tema politico eccetera eccetera. Quindi non sono solo lungaggini, ma dici c'è la percezione nelle persone che poi chi lo fa in maniera abusiva se la scampa, come dire, e magari risolve, e quindi c'è che può darsi una quota di persone assolutamente in buona fede che però hanno in questo caso anche una necessità legata all'attività, che poi riscontrano questo tipo di discorso e vengono scoraggiati dal continuare a muoversi nella legalità e dicono: metti a mano, come dire, all'impresa privata, chiamiamo qualcuno e procediamo, tanto poi prima che ci fermino. Grazie Davide, grazie, buona giornata. Da dove chiamava Davide? Da Como, quindi ci eravamo spostati a Como. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto, dica, buongiorno Enrico. Lei invece da dove telefona? Io chiamo da Verona, ma ho abitato in vari posti d'Italia. Varie residenze, sì, dica. In varie residenze. Sì. Niente, io ho avuto la mia esperienza molto strana, perché ho comprato casa, la mia prima casa giù a Monterotondo, e praticamente mi sono trovato che a distanza di qualche tempo, dopo varie rassicurazioni anche del notaio che tutto era a posto, mi sono trovato che la casa non aveva l'abitabilità. Nella ricerca che ho fatto di ufficio che mi rimbalzavano a destra e a sinistra, il genio mi dice che tutta Monterotondo Scalo è tutta non abitabile. Cioè la sorpresa dopo l'acquisto e dopo il rogito addirittura. Dopo il rogito, io ho chiesto al notaio, mi disse che non era compito suo quello della verifica, loro fa soltanto l'atto e basta. Quindi quando ho cercato di risolvere quella situazione, al genio un dirigente mi dice: guarda, tutta Monterotondo Scalo, dalla ferrovia in giù, non può avere l'abitabilità perché c'è il rischio esondazione. Per cui tutto un paese... E questo è da verificare anche. Enrico, grazie per questa segnalazione decisamente grave, Laura Biffi, se fosse nei termini in cui l'ha posto l'ascoltatore, cioè tutto un paese a rischio esondazione con costruzioni abusive, Laura. Sì, non è certamente l'unico caso in Italia, infatti con una battuta si potrebbe dire che ormai... diciamo, visto l'intensificarsi di fenomeni atmosferici seri a cui assistiamo negli ultimi anni, visto, diciamo, i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, il dissesto in Italia paradossalmente potrebbe un giorno risolvere in maniera però troppo drammatica la piaga dell'abusivismo in certi luoghi, perché si è costruito nelle fiumare, dando per scontato che, visto che sono asciutte, non scorrerà mai l'acqua, e poi ovviamente visto l'acqua non avvisa, arriva e si porta via tutto, e purtroppo si porta via non solo le case, spesso si porta via anche le persone. I costi sono altissimi, i costi umani sono altissimi, i costi economici. Gli ascoltatori hanno toccato vari aspetti, sì, a mio parere molto interessanti. C'è da dire una cosa, il nodo centrale stante le leggi che abbiamo in questo paese, è veramente quello della politica e il ritardo culturale della politica su questo tema come su altri. Spesso la politica è molto più in ritardo della, diciamo, del sentire paese comune, reale, del esatto. Oggi dobbiamo essere onesti, diciamo, culturalmente il paese è molto più avanzato della politica che lo rappresenta. Bisogna colmare questo gap. Quando intendo dire ritardo della politica, intendo dire anche ritardo della macchina burocratica. Ha perfettamente ragione il caso che citava il signore, parlava della masseria in Puglia che ha chiesto autorizzazioni per percorrere le vie legali ad avere diciamo una modifica. Io adesso non entro nel merito, sì, non so perché se non conosciamo il dettaglio, dice per fare un bed and breakfast nella sua Mara, da vedere se aveva, diciamo, le volumetrie richieste. Diciamo, richieste, se poteva ampliare o meno, però è pur vero che spesso ancora oggi chi prova a perseguire le vie legali si scontra con un apparato burocratico che anche quando ci fossero le condizioni per dire sì ti autorizzo mette 1000 ostacoli, e questo deve assolutamente cambiare, nel senso che le cose che possono essere autorizzate debbono essere autorizzate in tempi certi e senza problemi, le cose che non possono essere autorizzate, ovviamente no, e soprattutto tutto ciò che è fuori da queste prassi deve essere contrastato, e questa autorità ce l'hanno in primo luogo le pubbliche amministrazioni. Il signore che sollevava la questione del direttore. Ti fermo lavori un attimo, sì. Laura, perché siamo arrivati al momento del notiziario. Laura Biffi dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Lega Ambiente e Francesco Erbani sono i nostri ospiti, giornalista di Repubblica e scrittore su questi temi, sono i nostri ospiti su questa tematica molto calda che andremo a approfondire e a concludere tra poco dopo l'appuntamento con le notizie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E siamo partiti dalla Valle dei Templi, buona giornata ancora una volta da Irene Zerbini. Arrivano le ruspe per abbattere queste 650 case abusive. Intanto ieri è stato smantellato il primo muretto, anni, 17 anni dopo la sentenza. Da Agrigento ci siamo allargati per vedere un po' qual è la situazione dell'abuso edilizio in tutta Italia. Non capisco, dice un SMS al 349-238-6666, come si possa costruire una casa abusiva senza che le autorità preposte non se ne accorgano. C'è poi una risposta alla sollecitazione di un ascoltatore che diceva il direttore dei lavori deve avere più responsabilità, si comincia da lì. Si chieda, ci scrive Francesco, quanto è complicato costruire una casa, ci sono regole per la pendenza del tetto, non c'è possibilità di fare un progetto creativo, la presenza di troppe regole si traduce nello strapotere della pubblica amministrazione, o meglio, in quello che viene vissuto, direi io, come strapotere della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori, ci scrive un altro ascoltatore, ha la responsabilità penale sugli abusi edilizi. Già adesso bisogna tornare a una piena legalità. Attenzione, le regole sono molto importanti, altrimenti si cade nel qualunquismo, scrive da Teramo Max. Quindi tutta una serie di sollecitazioni su un problema che è molto sentito. Francesco Erbani, tu che hai parlato di questa Italia maltrattata in tutte le tue inchieste e nelle tue investigazioni di tipo giornalistico, ti sei occupato anche dei condoni che tra l'altro non coprono questo tipo di violazione da cui siamo partiti, quelle di ciò che viene costruito in area archeologica, giusto? Sì, esatto. Ecco, questo è uno degli esempi, quello dei condoni, della assoluta insensibilità della politica, delle pubbliche amministrazioni riguardo a questo fenomeno. Aver varato 3 condoni regolarmente ogni 10 anni dal 1990, dal 1985 al 2003 significa aver considerato il condono come uno strumento ordinario di governo del territorio. È chiaro che di fronte alla scadenza quasi regolare dei condoni, l'abuso edilizio viene considerato quasi un peccato veniale. Cioè hanno diffuso una mentalità, tu dici, hanno alimentato una mentalità, il fatto che ok, tu intanto fallo, poi lo possiamo sanare, no? Assolutamente sì, e non solo, ma dopo i condoni c'è stato sempre da parte di forze politiche, di singoli parlamentari, la richiesta di allungare i tempi dei condoni, cioè di allungare la possibilità di inserirsi nei condoni. Su questo, appunto, come citava prima la persona di Legambiente, su questo si sono giocate campagne elettorali, si sono giocate fortune elettorali da parte di parlamentari, quali garantivano che avrebbero allungato i tempi dei condoni. Questo è accaduto in Campania, per esempio, anche recentemente. Francesco, tra l'altro in Campania è accaduto anche l'opposto, cioè ci sono stati, vogliamo citarlo ogni tanto anche per dare una fotografia esaustiva del paese, sindaci molto coraggiosi, per esempio. Sì, a me preme ricordare il caso di Gerardo Rosania, che è stato sindaco di un comune della provincia di Salerno, Eboli, che riuscì a demolire circa 300 villette costruite abusivamente nella pineta di Eboli, alcune delle quali villette di proprietà di camorristi, e riuscì con uno sforzo titanico, ecco, quasi a dimostrazione che per far rispettare la legge bisogna essere un po' eroi. Cioè dovete chiamare l'esercito perché nessuna impresa si presentava. Esattamente. A svolgere i lavori alla gara d'appalto, diciamo. Esattamente, tutte le imprese che venivano convocate per la demolizione già ordinata, già diciamo, operativa, si ritiravano anche all'ultimo momento, per cui dovettero intervenire la Procura della Repubblica di Salerno e l'esercito. Prima di concludere, visto che potremmo continuare purtroppo per ore con questa sorta di mappatura di quello che non va, proviamo a rispondere anche a quegli ascoltatori che hanno indicato nella semplificazione burocratica forse la via per ottenere una maggiore percentuale, quantomeno, visto che il fenomeno non si può annullare del tutto, ma almeno una maggiore percentuale di legalità. È un argomento che ti trova favorevole? Cioè cos'è che si potrebbe fare che renda la vita, come dire, che dia una spinta propulsiva alla regolarità, al rispetto delle regole, alla legalità in questo ambito edilizio in Italia? Cosa servirebbe? Ma guarda, è vero che servirebbe senz'altro rendere più veloci certe pratiche, certe procedure autorizzative. A me fa un po' impressione però sentir parlare dell'Italia come un paese con troppi vincoli, con troppe regole. Questo è un paese che, rispetto allo scenario europeo, se vogliamo limitarci solo a questo, come dire, ha un tasso di inosservanza delle regole davvero impressionante. Non si può dire che l'Italia sia un paese che abbia vincolato troppo il proprio territorio, non si può dire che l'Italia soffra di un eccessivo controllo del territorio al punto che non si riesca a fare quello che si vuole. Esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto lo dimostrano. Questo è il quadro generale. Francesco, rimani con noi perché vogliamo sentire un'ultima telefonata su questo tema. Arriva da Savona. Mirko, buongiorno, benvenuto, dica. Buongiorno, volevo, oltre che sentivo la vostra trasmissione, portare anche, diciamo così, delle testimonianze di dove comunque ho operato in Lombardia, dove una volta ottenuto il permesso di costruire, nonché concessione edilizia, almeno io ho lavorato in due imprese nelle quali, una volta ottenuto questo permesso, effettivamente tutta la parte burocratica è stata comunque assolta affinché comunque si costruisse secondo le regole. Questo per spezzare anche una lancia a favore di chi costruisce regolarmente, perché purtroppo a volte si vede sempre quello che fa il furbo a rispetto invece di tante altre gente che segue comunque le regole. Lei che lavoro fa? Scusi Mirko. Io lavoro in un'impresa di costruzioni, seguo proprio la parte burocratica di quello che è la fornitura dei documenti per eseguire poi dopo l'edificazione delle palazzine. E lei è un geometra? Sì, lavoro come geometra nel comune di Peschiera Borromeo di un'impresa di costruzioni. E posso garantire che, e poi ho lavorato anche a Cernusco, che perlomeno, adesso non voglio fare comunque la questione comunque di regionalità, che sono sicuro che ci sono delle imprese che lavorano secondo le regole, però purtroppo in Italia Italia, c'è la mentalità dell'italiano, che poi tra altre cose è quello che fa poi più di notizia, che è quello di fare il furbo a discapito poi di altri. Mirko, grazie mille. Peschiera Borromeo e Cernusco sono alle porte di Milano, per chi non vivesse da queste parti. E grazie, perché è un addetto ai lavori, insomma, con questa testimonianza ci ha detto qualcosa che viene dal di dentro, dall'ambiente, cioè attenzione a invocare questo eccesso di burocrazia come scusa all'illegalità e all'abusivismo diffuso. Laura Biffi, hai sentito anche quest'ultimo intervento? Ci sono tantissime imprese che, una volta che come dire, portano la loro domanda e la documentazione, in realtà si vedono l'approvazione, arrivare l'approvazione sul tavolo per quello che devono fare, anche in tempi celeri, in tempi rapidi. Non è vero che sia sempre un elefante quello della burocrazia e dei vari assessorati preposti alla concessione edilizia. Abbiamo sentito anche una nota quasi di soddisfazione, Laura. Quindi io ti chiedo, quando affrontiamo questo tipo di temi, prima di tutto tu ti trovi ad Agrigento, oggi le ruspe sono in azione o si sono fermate ieri? Oggi dovrebbero riprendere a demolire, non sono, diciamo, sul posto e quindi non sono in grado di dirvi se hanno già cominciato, ma da programma oggi le demolizioni sono in corso. Perché l'abbattimento del muretto era il primo del provvedimento di esecuzione. Sì, era il primo manufatto in ordine, diciamo, da elenco delle demolizioni da fare in questa prima tranche. E abbiamo affrontato anche il tema del condono e dei condoni ripetuti. Sì, mi premeva aggiungere una considerazione. Davvero l'offerta di un possibile condono è stata in questi anni un via libera al nuovo abusivismo? Per quello noi diciamo alla fine che demolire l'abusivismo nuovo e soprattutto vecchio è il miglior deterrente contro nuovo abusivismo, che comunque, sebbene abbia rallentato il passo, non si ferma. Il CRESN ha stimato nel 2014 tra nuovi abusi e ampliamenti di vecchi abusi oltre 20.000, diciamo, nuovi casi, non sono pochi in un paese in crisi, anche in crisi edilizia. Ma è un deterrente contro la velleità di proporre nuovi condoni. La sola promessa di un condono ha fatto esplodere l'abusivismo edilizio anche dopo il 2003, anno dell'ultimo condono, in attesa che a scadenza decennale, appunto, forse arrivasse il quarto condono edilizio. Tra il 2003 e il 2011 il CRESN ha stimato 258.000 nuove case abusive in Italia, 258.000 nuove case in attesa di un condono che forse verrà e che per fortuna oggi non è arrivato. Sono stati sventati 20 tentativi di infilare il condono negli ultimi 4 anni da parte del Parlamento in alcune norme, le più improbabili. Ogni tanto trovavamo il condono edilizio infilato come emendamento nelle finanziarie di tutti i governi, di tutte le maggioranze che si sono succedute. Questa è una piaga, quella dell'abusivismo, vorrei sottolineare, che ha davvero devastato l'Italia e che però oggi siamo convinti la maggioranza del paese capito che, diciamo, il riscatto del degrado passa anche per il ripristino non solo della legalità fondamentale, della sicurezza, perché spesso l'abusivismo mette in pericolo, chiaro, cose e persone, ma anche della qualità dei luoghi. Noi siamo un paese bellissimo. Noi siamo un paese bellissimo. Laura, e la bellezza, grazie, dei luoghi, diciamo, è la chiave di volta, una delle chiavi di volta fondamentali per riscattarsi dalla crisi. Grazie a Laura Biffi, che ha curato il dossier L'Italia frana, il Parlamento condona di Legambienta. Francesco Erbani, un'ultima domanda: come si traduce condono edilizio in inglese? Nessuna maniera, nessuna lingua europea la parola ha un corrispettivo, perché non esiste un fenomeno analogo in nessun paese europeo dell'abusivismo edilizio. Grazie anche a Francesco Erbani, già questo da solo, questa considerazione ci spiega l'anomalia tutta italiana. Francesco Erbani domani esce con il libro Pompei Italia e si è occupato a lungo dell'Italia maltrattata, dell'abuso edilizio, ha vinto il premio giornalismo civile proprio grazie a questi temi e naturalmente con le sue considerazioni questa mattina ci hanno fatto riflettere su quello che a volte ha dovuto richiedere coraggio, addirittura esercito. Avete sentito il sindaco in provincia di Salerno, che ha dovuto chiamare l'esercito per l'abolizione di 300 villette di proprietà di malavitosi costruite in deroga a tutte le regole. A proposito di regole, stiamo per affrontare il secondo tema, che è molto legato però al primo di questa giornata, di questa puntata di Spunti di Vista. Cioè, noi ci siamo chiesti perché quando si parla di rispetto delle regole siamo i primi a invocarlo, a urlare purché siano applicate agli altri, e poi nel piccolo, nella quotidianità, ce lo raccontano i numeri, per esempio sul mancato acquisto del biglietto quando si prende l'autobus, solo per fare un piccolissimo spaccato delle abitudini. Allora, partendo da Reggio Calabria, dove l'evasione è al 25%, Firenze 14%, Bari 30%, secondo me Milano è ancora più furba, visto che ne parliamo in termini di furbizia, perché i dati che arrivano sono solo quelli della metropolitana, dove è ben più difficile entrare senza biglietto, e allora qui 0,9%. Non ci sono i dati sul trasporto di superficie. Il 55% delle aziende municipali, che in Italia sono 1280, presenta bilanci dissestati e debiti. Quindi anche noi tutti, col non acquistare o con lo scegliere di acquistare quel biglietto, in qualche modo contribuiamo. Tra l'altro, biglietti che secondo la media europea sono bassi rispetto alle altre città d'Europa. Potete anche segnalarci quanto avete pagato a Copenaghen e Parigi in queste ultime vacanze, o anche a Praga, perché no. Noi vogliamo affrontare il tema della legalità e di questa morale un po' oscillante che abbiamo, per cui gli altri devono rispettare le regole, tutti. Noi invece, quando non chiediamo lo scontrino, quando ci mettiamo d'accordo con la colf o le badanti perché possiamo pagare in nero le persone, quando ci dimentichiamo della merce sul fondo del carrello, è stato segnalato, nemmeno ci sentiamo in colpa, perché la nostra è una necessità, quella degli altri è una furbizia. Gherardo Colombo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Pronto? Sì, sì, mi sente. Sì, Gerardo Colombo, buongiorno. Lo ricorderete insieme a Antonio Di Pietro, naturalmente, a Gerardo D'Ambrosio, a Pier Camillo Davigo. Era il 1992, coordinati da Francesco Saverio Borrelli, questi magistrati italiani hanno scritto una pagina della storia italiana. E poi le chiederemo anche una considerazione anni e anni dopo su quanto le viene in mente osservando l'Italia di oggi, del 2015. Ma soffermiamoci su questo tema della legalità, perché Gerardo Colombo è diventato famoso per queste inchieste molto rilevanti, anche la Loggia P2, prima il delitto Ambrosoli, prima di Mani Pulite. Però ha pensato che i destinatari del suo messaggio a un certo punto dovessero essere i giovani, i ragazzi, e va spesso nelle scuole. Ha scritto questi libri, Lettera a un figlio su Mani Pulite, Farla franca è un altro titolo, La legge è uguale per tutti, con un punto di domanda molto significativo, e poi Educare alla legalità, l'ultimissimo, suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti. Le chiedo, è possibile, Gerardo Colombo, dare qualche suggerimento in onda anche a noi, genitori e insegnanti? Sì, cioè io credo che la questione sia soprattutto una, se non quasi esclusivamente, una questione culturale, no? Di modo di pensare e di modo di sentirsi in relazione con gli altri in una certa maniera piuttosto che in un'altra. E purtroppo in questo paese noi abbiamo pochissimo, ammesso che un pochino ce l'abbiamo, il senso della comunità, per cui ognuno va per la propria strada, anche se ci sono ovviamente delle eccezioni, però la linea di tendenza generale è questa: ognuno va per la propria strada, semmai cercando di approfittare degli altri piuttosto che non di collaborare con loro. Quindi, ma quando lo facciamo, no? Uso un plurale, metto tutti noi, perché qui non siamo a metterci su un piedistallo, a dire dobbiamo indicare agli altri, perché per primi le cose partono da sé. Ma quando facciamo queste cose, siamo consapevoli di violare le regole, cioè ci sentiamo un po' fuori legge, o invece ci autoassolviamo, dalla sua osservazione? No, generalmente ci si autoassolve, cioè chi guida parlando al telefono senza il vivavoce, per esempio, pensa che la norma, che la regola che lo impedirebbe sia una regola stupida, che lui tanto comunque è capace di fare due cose insieme, e poi però succedono gli incidenti che succedono, perché è una cosa pericolosa, per dirne una, no? Le nostre violazioni non sono mai percepite come gravi, quelle degli altri invece ci fanno imbestialire. Ma non sono neanche percepite come violazioni, quasi, nel senso che noi troviamo sempre il mezzo per giustificarci, no? Abbiamo questo rapporto molto strano, attenzione, con alcune regole, non con tutte, perché secondo me non è vero che gli italiani non sopportano le regole e quindi le trasgrediscono tutte le volte che riescono. Cioè, quindi lei dice alcune e non tutte, e quali sono? Che tronconi ha individuato? Per esempio, le regole della corruzione vengono seguite ben bene, e dove le mafie sono molto presenti sul territorio, le regole della mafia vengono seguite ben bene. Ci sono dei paesi in cui nessun ragazzo mette il casco quando va in moto, perché la mafia l'ha ordinato, la camorra l'ha ordinato. Allora noi dobbiamo riuscire a capire come mai sono queste le regole che proprio non sopportiamo. Io credo che dipenda dal fatto che organizzano la società in modo da far sì che ciascuno avrebbe, se fossero osservate, le stesse possibilità degli altri. E noi invece continuiamo ad avere una mentalità da società verticale, no? Una società in cui ci si mette in gerarchia. E a volte società, senza che nemmeno nessuno ti obblighi, cioè ci piace molto, abbiamo un pochino un servilismo innato, andiamo a fiutare quando entriamo in una stanza chi comanda, non per capire quali siano le policy e le regole, ma per capire a chi dovremmo piacere, a chi dovremmo compiacere. A volte c'è un po' questa ma io le chiedo, lei Gherardo Colombo, che ha osservato e visto di tutto nel corso della sua vita, e poi si trova davanti ai ragazzi, perché lei va nelle scuole, e cosa le chiedono? Che rapporto ha? Che impatto ha? Immagino ancora oggi riescano a sorprenderla. Come sono? Ma no, non particolarmente. Guardi, sono gli adulti che ormai non mi sorprendono più per la loro così pervicacia, per la loro costanza nell'essere così in distonia, proprio separati, no? dalle regole che dovrebbero, no, se fossero osservate, riuscire a farci star meglio. Ma i ragazzi sono invece disponibilissimi. Noi abbiamo un'idea dei ragazzi che è esattamente il contrario di quello che sono. Esatto. No, noi li immaginiamo disinteressati, indolenti e così via. Ma magari appaiono anche così, però secondo me questo dipende soprattutto dal fatto che noi adulti non gli diamo l'occasione di potersi esprimere, di poter essere protagonisti. Sono un po' come se fossero un pochino, diciamo così tra virgolette, dei sudditi, degli adulti, soprattutto in alcune scuole, non in tutte ovviamente, in cui il ragazzo è sostanzialmente obbligato a fare da spettatore piuttosto che non essere interprete. Perché quando lo è, invece, tra l'altro lei è una persona che ispira i giovani, spesso chiedono questi adulti a cui far riferimento, a cui ispirarsi, e quando vengono ispirati le istanze, le richieste di legalità, ad esempio. Sì, prego, dica. Non è tanto questione di ispirarli, è questione di ragionare con loro, di dargli spazio, di dialogare, invece di fare le lezioni frontali come molto, molto, molto frequentemente succede, fare dei percorsi insieme, fare dei percorsi insieme. Io quando vado nelle scuole, ci vado veramente molto spesso, mi sono dimesso dalla magistratura per farlo, quando vado nelle scuole non succede quasi mai che cominci con delle affermazioni, comincio facendo loro delle domande. E anche quando sembra all'inizio che l'attenzione non potrà essere particolarmente elevata, poi va a finire, le eccezioni sono veramente pochissime, sì, che il coinvolgimento progressivamente aumenta e diventa facilissimo riuscire a parlare con tutti e a dialogare. E sono gli adulti invece che la lasciano ancora oggi perplesso. Rimanga con noi naturalmente Gherardo Colombo, sentiamo anche voi 800 24 0024 per intervenire in diretta. Allora, ci scrivono gli ascoltatori che quando la pressione fiscale ti schiaccia fornendo dei servizi vergognosi e degradati come i trasporti, è normale che il cittadino quando può cerca delle scappatoie perché non ne può più. Muoversi quotidianamente con i trasporti pubblici in Italia è devastante, continua, però non c'è la firma, non c'è la firma, quindi non so chi abbia mandato. Questo è un pochino la sintesi di questa autoassoluzione collettiva che spesso pratichiamo. Edoardo, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica, da dove chiama Edoardo? Da Verona. Sì. E volevo solo puntualizzare la cosa detta prima, in Italia non si paga il biglietto, almeno una parte non paga il biglietto, all'estero invece è normale che il bigliettaio dia la possibilità di... Ecco, questo a Verona succede già da un anno, adesso non so se è l'unico caso in Italia, non credo, però è per dare... una soluzione concreta. No, non è l'unico perché ce lo segnalano anche da Brescia, cioè a Verona cosa succede da un anno, ce lo spieghi? Se uno non ha fatto il biglietto prima, lo fa il momento in cui sale il bigliettaio, fa il biglietto e l'incentivo che è stato dato è quello di una piccolissima parte del biglietto va nello stipendio del conduttore, insomma dell'autista. Ah, quindi c'è anche questa condivisione. Grazie Edoardo che ci ha segnalato questa pratica messa in atto in Veneto, quindi più biglietti si riusciranno a collezionare a fine anno e più ci sarà questa spartizione tipo bonus per arrotondare un po' lo stipendio del conducente. Marco invece a Firenze cosa succede? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, salve. Io sono presto d'accordo con quello che ha detto il signor Colombo, però io lavoro in ambito turistico, glielo dico, faccio il tassista e quindi vedo tanti comportamenti e gli posso garantire che i peggiori non siamo solo noi, gli stranieri che vengono qua, che hanno comportamenti nel loro paese piuttosto integralisti, quando vengono qui si lasciano andare. Io posso garantire i peggiori a guidare, per esempio, sono i tedeschi che non rispettano le regole e stanno moltissimo al telefono. Io sono stato in vacanza in Austria e obiettivamente hanno dei comportamenti fantastici a livello civile, si fermano sulle strisce pedonali, non c'è carta in terra, però quando vengono qui gli a casa loro, a casa loro, quindi esatto, e quindi c'è una doppia morale anche. C'è una doppia morale, gli dico questo e poi concludo. Sì. Io credo uno Stato debba essere non autoritario ma autorevole. Quando ci sono delle regole vanno imposte. Io sto telefonando a voi con le cuffie e lo so che vi può dare disturbi per la trasmissione, ma io lavoro in macchina e gli posso garantire che non telefono mai il telefono in mano, o sono in viva voce o sono le cuffie, per cui basta poco, però lo Stato deve essere autorevole. Grazie a Marco che ci segnala questo lasciarsi andare anche da parte degli stranieri una volta varcati i confini, perché sentono che qui, come dire, verranno controllati e sanzionati di meno. Torniamo tra poco, vi stiamo chiedendo quello che osservate in questo ambito, l'avevamo detto, su noi stessi, cos'è che facciamo dal non mettere in regola qualcuno che lavora in casa nostra, ottenere lo sconto, non lo so, da qualcuno che fa dei lavori lavori in cambio della mancata emissione della ricevuta fiscale. Il pagamento RAI, il canone RAI, uno dei più evasi, e poi il biglietto pubblico, il biglietto sui tram e sugli autobus delle città è uno degli elementi da cui siamo partiti perché esistono i numeri. E tra poco parleremo di questo con uno scrittore che proprio a questo ha dedicato anche l'ultimo libro, Gianrico Carofiglio. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. All'autoassoluzione Gianrico Carofiglio ha dedicato l'ultimo libro, La regola dell'equilibrio, e Aldo, Giovanni e Giacomo ne hanno fatto questo ritratto di questa abitudine tipicamente italiana. Sentiamo. Senta, biglietti, scusi, mi faccia vedere il biglietto, se ce l'ha. Se l'ho, se non ce l'ho, l'ho perso. Se l'ha perso le farò la contravvenzione, va bene? Ho capito per quale motivo deve mettere le mani avanti. Che metto le mani avanti, ho detto se non ce l'ha le farò futuro. Se lo ritroverò anteriore. Senta, non faccia lo spiritoso, cerchi sto biglietto, se ce l'ha la chiudiamo. Se l'ho perso. Se ce l'ha. Con la sigaretta. No, grazie. Guardi che non è per corrompere. Ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Ci mancherebbe. 9.36, allora quali sono le malefatte di cui ci siamo macchiati? Alcuni ci dicono anche marciapiedi e biciclette sui... No, marciapiedi e biciclette sui motorini è un po' difficile. Motorini e biciclette sui marciapiedi, stavo leggendo a rovescio a questo sms. 349-238-6666. Se volete intervenire, 800-24-00-24. Gianrico Carofiglio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Tra l'altro grazie, lei è un ex magistrato, quindi... di queste oggi, cose avete fatto il pieno di ex magistrati oggi. Avete, sì, perché voi avete questa sensibilità nel suo caso artistica, nel caso di Gerardo Colombo come ha sentito pedagogica, educativa, e secondo me però avete attinto a piene mani al mestiere che facevate prima, naturalmente, per osservare l'animo umano. Beh, non c'è dubbio. Ci racconti un po' la sintesi, senza rovinare il piacere a chi lo leggerà, di questo libro, La regola dell'equilibrio? Il libro è un racconto di ambientazione giudiziaria, alcuni definiscono alcuni dei miei libri come legal thriller, una definizione per cui non vado pazzo, ma insomma riesce a fotografare sinteticamente alcuni degli aspetti. È la storia di un magistrato accusato di corruzione, bisognerà vedere se poi questa accusa è fondata o meno, difeso dall'avvocato Guerrieri, che è un personaggio che alcuni ascoltatori forse conoscono. E il tema però è la riflessione su come, indipendentemente dai reati, ci sia da parte di tutti, anche da personalità di livello molto alto, a riflettere sul fatto che le regole riguardano gli altri e noi invece siamo soprattutto interessati dalle eccezioni. O per dirla con una frase famosa di Giolitti, la legge si applica ai nemici e si interpreta per gli amici, che è un buon modo, diciamo, per dire qual è l'atteggiamento di moltissimi di noi. In la legge si applica ai nemici e si interpreta per gli amici. Poi lei nel libro, Carofiglio, cita anche un altro fenomeno che è la conseguenza di questo nostro atteggiamento, certo, cioè il distacco dalla realtà. A un certo punto ci crediamo. Beh, ma è così, guardi, noi tutti abbiamo un'immagine di noi stessi alla quale ci appoggiamo per la vita quotidiana. Se non ci riconosciamo in un personaggio, di solito, diciamo, per l'equilibrio che noi dotiamo questo personaggio, questa nostra immagine, di qualità positive, e questo personaggio non può essere distrutto dall'ammissione, per esempio, della violazione sistematica di regole. E allora chi commette reati, soprattutto quel tipo di reati, corruzione o in generale cose che hanno a che fare con la morale pubblica, tende a spiegare a se stesso, prima ancora che gli altri, che in realtà non sta facendo nulla di male. E ci sono molti modi, soprattutto per le persone intelligenti, di produrre questa immagine del sé deformata. Questo fa riferimento poi lo stesso titolo del libro, perché la regola dell'equilibrio è la capacità di non mentire a se stessi. Quando uno comincia a mentire a se stesso, e in quegli ambiti è un fenomeno diffusissimo, il mentire a se stessi è non sto facendo niente di male. Se uno comincia a mentire ed è a se convinto stesso, cioè non si distingue più la verità né in se stesso né intorno a sé, giusto? Sì, cioè non è un... È esattamente questo, e questo è il problema grave, la percezione diciamo del significato di certi comportamenti, che ovviamente non può dipendere soltanto, Gerardo Colombo ha del tutto ragione, c'è una esigenza di educazione, c'è il bisogno di ridefinire la trasmissione della cultura rispetto ai giovani, però questo non è sufficiente. A me sono piaciuti molto i due interventi degli ascoltatori, perché nella loro, diciamo, semplicità, e la semplicità è una dote, sia chiaro, hanno fotografato due aspetti fondamentali del problema, o probabilmente un aspetto da due angolazioni diverse, cioè che le regole devono anche essere, come dire, in qualche modo percepite come regole che verranno fatte rispettare se uno le viola. A tutti. La questione del biglietto dei mezzi di trasporto, che con cui molto appropriatamente avete cominciato questa discussione, fu al centro di una, letteralmente di una rivoluzione nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico a New York all'inizio degli anni 90. Se ho due minuti racconto la storia. Racconti, perché è molto significativo e emblematico. Questo è estremamente interessante. Nel 92 a New York c'erano 2.500 omicidi, dico 2.500 omicidi, un numero spaventoso di aggressioni, rapine, stupri, e la maggior parte di questi reati erano commessi all'interno della metropolitana. Nel 92 fu nominato capo della polizia un signore che era un criminologo, si chiamava e si chiama Bratton perché recentemente è tornato a dirigere la polizia di New York, che era il fautore di una teoria criminologica che si chiama teoria delle finestre rotte, che in estrema sintesi dice questo. Se noi viviamo in una città in cui a un certo punto qualcuno comincia a rompere delle finestre o dei lampioni e nessuno si preoccupa di ripararli, tutti penseranno che le regole non ci sono o che comunque non c'è nessuno che le fa rispettare, e tutti si regoleranno in maniera anarchica. Applicata la metropolitana, lui che fece? Constatò quello che voi avete detto parlando della maggior parte delle realtà italiane, che circa il 30% dei viaggiatori sulla metropolitana a New York non pagava il biglietto. E lui prese tutti i suoi uomini della polizia della metropolitana e li mise a controllare il pagamento del biglietto. Fu attaccato in maniera feroce, perché in una situazione in cui c'erano reati gravi e gravissimi, che la polizia si occupasse di controllare l'abusivismo dei viaggiatori sembrava cosa marginale. Sì. Due anni dopo, è semplice immaginare che l'abusivismo dei viaggiatori era praticamente scomparso. È meno semplice immaginare che i reati commessi gravi nella metropolitana erano giunti al minimo storico, dico di tutta la storia, ma per la semplice ragione che veniva percepita l'esistenza di un'autorità che faceva rispettare le regole. Chiediamoci, venendo alla realtà italiana, quale delle tante regole civili è stata incredibilmente, per noi tutti, ma immediatamente subito rispettata? Se ci pensate un attimo, il fumo nei locali. Il fumo. Perché? Perché il modo per risolvere i problemi è essenzialmente nel vedere quello che ha funzionato e riprodurlo. Ha funzionato per il controllo sociale, perché c'erano i non fumatori. Allora deve valere esattamente. Sì, perché i non fumatori si facevano avanti e ti invitavano a spegnere la sigaretta, questa moral suasion, come allora viene definita, che in Italia un pochino quello manca, nel senso che ognuno si fa gli affari suoi, anche quando vede i ragazzi seduti con i piedi sul autobus, sul tram, altra segnalazione che ci arriva, e c'è un po' quasi il timore di intervenire, mentre a volte all'estero, se violi una regola che tu conosca o meno, viene avvicinato proprio anche dalla signora che senza nessun timore ti invita a ritornare nel rispetto delle regole. È molto bella questa teoria delle finestre rotte, perché parla anche del senso d'appartenenza. Quando senti di appartenere a una comunità dove le regole vengono applicate, fatte rispettare per tutti e a tutti, e sarai anche più invogliato. Ce lo raccontava il taxista, caro figlio. Ce lo raccontava il taxista, che ha detto una cosa, diciamo, molto semplice e molto profonda, facendo riferimento agli stranieri che vengono qua e credono di essere a Luna Park. Perché ancora una volta non è soltanto una questione di cultura individuale, perché se tutto, o anche collettiva, perché se tutto dipendesse da quella cultura individuale e collettiva, il tedesco, l'austriaco, il danese o chi per lui che viene in Italia continuerebbe a comportarsi allo stesso modo. Siccome spesso non lo fa, ciò chiaramente si può dire che dipenda dal fatto che ha l'idea che non verrà nessuno a dirgli di smettere o a sanzionarlo. Allora, una questione fondamentale, che non significa, diciamo, esasperazione del principio di autorità o di un'idea di repressione ottusa, ma semplicemente di percezione collettiva della necessità del controllo sociale. Un'idea fondamentale è che le regole devono essere fatte percepire come regole che si applicano. E per farlo, siccome non è facile, se no non staremmo qua a parlarne ora e da tanto tempo, bisogna individuare i casi in cui la cosa ha funzionato. Questo vale per tutti. Chiaro. E poi invece di concentrarsi sempre su ciò che non funziona, scuotere la testa e farsi cadere le braccia, andare a vedere come mai lì ci si è riusciti e cercare di mutuare quello che è mutuabile. A volte i trapianti così totali non riescono, però alcune parti. No, Gianrico, il principio. Gianrico, caro figlio, un attimo, la fermo perché abbiamo Massimiliano che aspetta da molto tempo. Buongiorno, benvenuto, da dove chiama Massimiliano? Buongiorno, buongiorno, chiamo da Trento. Sì, dica. Io volevo darvi questo spunto. Viaggio molto per lavoro e mi capita molto spesso di poter confrontare la nostra cultura con quella di altri paesi, indistintamente dall'Europa piuttosto che dall'Asia, Giappone. La invito alla sintesi, ma giusto per la linea del suo telefonino, perché è difficile seguirla. Uno degli elementi che manca per diciamo la cultura del Stato, le regole, è la condanna sociale che voi avete menzionato poco fa, cioè quando qualcuno accanto a noi trasgredisce la regola non solo lo guardiamo con ammirazione perché ha fatto qualcosa di più furbo rispetto a quello che stiamo facendo noi, ma ci sentiamo anche da meno, e in assenza di uno Stato, di un'autorità che faccia rispettare le regole, ci sentiamo in dovere di in qualche modo difenderci da soli. Questo è un altro rischio che ancora non abbiamo nominato. La giustizia fai da te, visto che ti autoassolvi anche in quel caso. Io posso difendermi da solo perché tanto nessuno interverrà, o comunque nessuno interverrà in tempi certi o in tempi ragionevoli. Massimiliano, grazie, ci ha chiamato da Trento. Andiamo a Ferrara. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Anzi no, Vittorio, rimanga un attimo perché mi dicono che sì, siamo con lei e lei sarà il primo a parlare, ma dopo aver controllato il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ci segnalano che nelle città grilline i trasporti pubblici sono gratuiti come dovrebbero essere ovunque. Beh, certo, per il rispetto dell'ambiente, per la mobilità degna, da 2015 dovrebbero veramente essere gratuiti completamente. Ma intanto noi abbiamo dei bilanci dissestati in questo settore importantissimo della vita collettiva, per un valore complessivo, diciamolo in posti di lavoro invece che in numeri da fatturato e da bilancio. 465.000 persone lavorano nel trasporto pubblico in Italia e il contributo pubblico al settore è pari al 75% del fatturato. In Unione Europea la media è del 50%, l'altro 25% dovrebbe entrare da questi biglietti, che sono non l'oggetto ma il pretesto di questa parte di trasmissione. Tra poco andremo a salutare anche qualcuno che invece che sugli autobus lavora sulle strade, un agente della Polstrada particolare che ha scritto perfino un libro sulla sua esperienza. Avevamo lasciato in sospeso però il nostro ascoltatore da Ferrara. Vittorio, buongiorno, dica. Buongiorno, niente, diciamo Massimiliano mi ha un po' preceduto sull'argomento che io volevo trattare. Diciamo che sono una persona che sta girando il mondo da circa, diciamo, 50 anni e ho girato un po' tutto il mondo e ho potuto confrontare quello che succede da altre parti, in paesi anche, diciamo, che noi consideriamo terzo mondo, dove i servizi al cittadino, trasporti pubblici, se non tutto il resto, funzionano in maniera molto ma molto migliore da noi che da noi. Tipo, e faccia degli esempi, visto che lei io non so se lei sia mai stata o qualcuno sia mai stato in Cina, in città da 30 milioni di abitanti, tipo Chongqing o, se non Chongqing, Chengdu, dove ci sono delle metropolitane che non dico che ci si può mangiare per terra, ma quasi. Provi ad andare alla metropolitana italiana e vedo un po' la differenza. In un aeroporto pubblico, cioè un aeroporto, diciamo, da milioni di passeggeri, dove quando passa al controllo dei raggi X con il bagaglio a mano, gli addetti danno una mano a portare le valigie, a spostare le valigie. E qui da noi io addirittura ho avuto un diverbio in un aeroporto italiano, perché chi doveva controllare il video delle cose che passavano sotto, mie personali, stava invece chattando col telefonino, ridendo con i colleghi. Io e lei si è autodenunciato, dice, insomma, controllate perché potrei essere pericoloso. No, addirittura ho preso tutta la mia roba, l'ho riportata indietro e sono andato da lei e dico: adesso la controlla, perché io sto affidando la mia sicurezza a lei. È venuto un poliziotto, è arrivato un poliziotto che era di servizio e mi ha redarguito. Lui, il poliziotto, perché ho fatto questo, dice: lei non lo deve fare, io lo faccio, gli ho detto. Perché voi siete gli addetti alla mia sicurezza. E di quella che, di chi viaggia con me. Vittorio, grazie, molto molto bella questa telefonata. 800 24 00 24, il numero. Andiamo a conoscere Barbara Bonani. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Ma lei è una scrittrice, un agente della polstrada, tutte e due le cose. Cosa fa oggi? Ora, scrittrice è una parola grossa, però mi sono dilettata a scrivere alcuni testi, appunto, dove ho raccolto la mia esperienza. E appunto ne sono usciti due libri di scuse, di quello che mi dicevano appunto gli utenti della strada una volta che venivano fermati da me personalmente. E quindi lei, addetta alla polizia stradale di Pisa, ha scritto lo scusario dell'automobilista, perché proprio è rimasta così colpita da quello che le dicevano. Ma ci faccia qualche esempio, perché quello è l'atteggiamento, no? Ce lo raccontava anche caro figlio. Per noi troviamo sempre eccezioni. Infatti, ora rapidamente, perché è vero che con i tempi siamo stretti. Dicevo, io comincio con una frase del mio primo libro che dice: gli italiani vogliono una polizia più efficiente fin quando non li ferma la stradale. Allora, fino a che, e questo secondo me rispecchia un po' la mentalità dell'italiano. Allora, siamo pronti ad additare a destra e a sinistra, però quando poi veniamo fermati, allora noi praticamente troviamo subito le scuse più inimmaginabili. Per esempio, la cosa più... Allora, la cosa più divertente, tra virgolette, è stato un signore già di una certa età che una sera ho fermato e non avevo la cintura di sicurezza, perché nonostante tutto anche la cintura e il telefonino sono le infrazioni abbastanza frequenti. E praticamente questo signore mi ha detto che non l'aveva messa la cintura perché aveva mangiato troppo e quindi aveva dovuto slacciare anche la cintura dei pantaloni. E mi voleva far vedere questi pantaloni slacciati, cioè proprio dal finestrino. Oppure... c'è il signore che dice: ma guardi che la macchina non è mia, ho paura di rompere le cinture di sicurezza. Oppure quindi aveva questo riguardo verso chi gliel'aveva prestata. Si sfilano. Ne abbiamo diverse per tutti i gusti. Sul telefonino come ci si giustifica? Sul telefonino ce ne abbiamo bellissime. Ad esempio, dal signore che non telefonava, ma semplicemente col telefonino si grattava la testa. Quindi che avevamo noi sbagliato, perché lui è... Oppure lo usava per sorreggersi la testa, perché era stanco in quel momento e quindi la mano era un po' debole e col telefonino riusciva a sorreggersi la testa mentre guidava, capito? Le ha argomentato questo, cioè io non ho il telefono all'orecchio, ma sto sorreggendo la testa, serio, senza ridere. Ma serio. Io non so se si preparano, se si dicono al momento, ma veramente ce ne sono tantissime. E infatti tanti colleghi che mi conoscono continuano a inviarmele e molto probabilmente ne uscirà fuori un terzo libro. E lo scooterista invece di solito cosa che regola infrange? Allora, purtroppo abbiamo l'infrazione più frequente, quella della mancata revisione per lo scooter e anche della mancata assicurazione. Queste sono delle infrazioni un pochino più recenti, perché inizialmente quando fermavo le persone prima appunto di scrivere questo libro, molti li trovo senza casco e anche per il casco abbiamo più che altro ragazzini che non lo mettevano perché praticamente magari avevano l'acconciatura con tutto il gel, quindi mettendosi il casco praticamente gli abbassava la cresta praticamente, oppure un ragazzo che non lo metteva perché diceva che aveva l'orecchia sventola e col casco gli facevano male. Ora in effetti un po' sventola ce l'aveva le orecchie, però non mi sembra una scusa un po' una scusa. L'ha multato? Lei l'ha multato? Certo, noi come poliziotti purtroppo dobbiamo far rispettare le regole. Beh, molto godibile anche questa raccolta di scusario dell'automobilista e scusario dello scooterista, che però fa riflettere su questa tendenza. Grazie, grazie a Barbara Bonanni, l'avete sentita in servizio alla Polizia Stradale di Pisa, quindi se passate da quelle parti preparatevela davvero buona, così almeno finite su un libro e almeno ci si riesce anche poi a divertire in seguito a questa infrazione. E la regola dell'equilibrio, lo diceva Gianrico Carofiglio. Gerardo Colombo nel frattempo ha dovuto andare, aveva altri impegni e ci ha lasciato. Vorrei concludere con lei, caro figlio. Prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che siete stati con noi per questa trasmissione e voglio ringraziare quelli che hanno lavorato a questa puntata: Silvi Boccaletti, Alessandro Longoni, Luca Cremonese, Laura Faggin, perché hanno dato degli spunti e delle osservazioni mettendosi anche in gioco gioco per primi molto importante. Ma Gianluca Carofiglio, quindi quanto noi ci autoassolviamo? Lei dice mentiamo a noi stessi, quindi a chi facciamo del male? Alla collettività o in primo luogo? Naturalmente dipende da quali sono le regole di cui stiamo parlando, ci sono regole del comportamento individuale e regole del comportamento collettivo. In generale la tendenza a mentire a se stessi è una tendenza, aspetti inevitabile, una certa dose di menzogna su se stessi, le direbbero gli psicologi sociali, è indispensabile per vivere in modo equilibrato. La questione è trovare un punto di equilibrio, cioè non mentire a se stessi sulle questioni fondamentali e soprattutto non mentire a se stessi sulle violazioni che si sono commesse. Il senso di colpa è sbagliato, negare che qualcosa sia accaduto. Invece, abbiamo 20 secondi proprio, Gianrico Carofiglio, quindi il senso di colpa è sbagliato ma non arriviamo alla negazione della realtà. Grazie mille anche per questo suo intervento, La regola dell'equilibrio, il libro che tratta proprio questo tema. Da Irene Zerbini l'appuntamento con Spunti di Vista è per domani mattina alle 7:15, grazie anche a Peter Bescapè in regia.